Ma tu, pallida luna, perché sei tanto triste? Cos'è che non risplendi per me lassù? Tu puoi veder nel mio cuore la delusione d'amore, questo mio grande dolore. Tu sai che baci mi sapeva dare, ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più. Ma tu, tu, tu, pallida luna, perché sei tanto triste? Cos'è? Tu vuoi soffrire con me? Che baci mi sapeva dare, ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più. Ma tu, ma tu, ma tu, pallida luna, perché sei tanto triste? Cos'è? Tu vuoi soffrire con me, pallida luna, perché sei tanto triste? Cos'è?